The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Physics with one half to Rainer Weiss and the other half jointly to Barry C. Barish and Kip S. Thorne, all of them members of the LIGO-Virgo collaboration. Ottobre 2017. L'Accademia svedese delle scienze attribuisce il premio Nobel per la fisica a Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne per il loro contributo all'osservazione delle onde gravitazionali. È la fine di una ricerca scientifica durata 100 anni, ma è anche l'inizio di una nuova era negli studi dell'universo. Ma cosa sono le onde gravitazionali? Da cosa sono generate? E perché ci interessa tanto studiarle? Partiamo da un esempio a noi vicino. Come un sasso lanciato in uno stagno perturba lo stato di quiete dell'acqua, creando dei cerchi sulla sua superficie, le onde gravitazionali fanno vibrare il tessuto dello spazio-tempo quando lo attraversano. Nel loro caso, però, l'origine è legata a fenomeni fisici molto potenti che avvengono lontanissimo da noi. A questo punto dobbiamo capire cosa sia lo spazio-tempo e come questa dimensione può essere perturbata dalle onde gravitazionali. Tutto ebbe inizio da un'intuizione di Albert Einstein e dalla sua teoria della relatività pubblicata nel 1916. La sua visione rivoluzionava il concetto di gravità, non più una forza di attrazione tra oggetti distanti, ma piuttosto un effetto in grado di deformare il tessuto dello spazio-tempo. La spiegazione di Paola Catapano, giornalista divulgatrice al CERN e autrice del libro Il lungo viaggio delle onde gravitazionali. La sua rivoluzionaria unificazione di gravità, spazio e tempo faceva intuire che dovevano esserci queste onde, perché se lo spazio e il tempo sono un'unica cosa e sono dilatati dalla presenza di grandi masse, è come se ci fosse una specie di gelatina, cioè è un tessuto lo spazio-tempo, e l'onda gravitazionale è come se questo tessuto si strappasse quando avvengono degli eventi cataclismici come collisioni fra due stelle di neutroni o collisioni fra due grandissimi buchi neri di grande massa. Le onde gravitazionali, propagandosi, hanno dunque effetti materiali su tutto l'universo, incluso il nostro pianeta, come conferma il fisico Gianpietro Cagnoli, ricercatore all'Università di Lione 1 e in precedenza collaboratore di Virgo, il rivelatore di onde gravitazionali con sede in Italia. Quando un'onda gravitazionale passa sulla Terra, produce degli effetti che sono effetti meccanici, effetti di forza. È come se tu dessi un pizzicotto allo spazio-tempo e provocassi un'increspatura. Questa increspatura si propaga come un'onda sferica alla velocità della luce, e questa onda spreme e dilata lo spazio, lo allunga e lo accorcia quando lo attraversa. Queste contrazioni sono praticamente impercettibili, parliamo della millesima parte di un protone. La mancanza di una tecnologia di punta per la loro rivelazione spiega perché è stato necessario quasi un secolo per confermare la visione di Einstein. Il primo contatto che è stato possibile registrare è avvenuto il 14 settembre del 2015, quando due strumenti americani, dotati di una sensibilità mai raggiunta prima, sono riusciti a svelare per la prima volta nella storia queste vibrazioni. Il fenomeno era stato originato da due buchi neri circa 30 volte più grandi del Sole, che quasi 2 miliardi di anni fa hanno iniziato ad avvicinarsi l'uno all'altro fino a fondersi insieme, liberando una quantità di energia superiore a quella emessa da tutte le stelle dell'universo. È stata la condizione che ha generato la perturbazione dello spazio-tempo, come conferma il professor Cagnoli. L'unica possibilità quindi di rivelare queste onde gravitazionali è quando abbiamo in gioco delle masse molto grandi e che, nelle quali sono coinvolte anche delle accelerazioni molto grandi, di velocità prossima a quelle della luce. Le onde provocate dall'evento identificato nel settembre 2015 hanno attraversato la Terra deformandola brevemente. Per individuare queste impercettibili variazioni si usano strumenti chiamati interferometri. In quell'occasione furono i rivelatori LIGO negli Stati Uniti e Virgo in Italia a registrare la vibrazione giunta dal cosmo. Ma come funzionano queste strumentazioni? Ce lo spiegano Catapano e Cagnoli. Questi interferometri sono fatti da bracci perpendicolari, LIGO e Virgo sono a L, hanno due bracci a L, e si scambiano continuamente dei fasci laser e hanno sempre la stessa lunghezza. Nel passaggio di un'onda, questi fasci laser si allungano e si accorciano, esattamente della misura prevista dalla formula einsteiniana. I rivelatori riescono a misurare vibrazioni che hanno un'ampiezza dell'ordine di 10 alla meno 20 metri, 5 ordini di grandezza più piccole del nucleo dell'atomo. Lo studio diretto delle onde gravitazionali ci permetterà di scrivere nuovi capitoli della storia dell'universo e di andare oltre le potenzialità dell'astronomia tradizionale. Intanto è nata l'astronomia multimessaggera. Cosa vuol dire? Che noi finora, per capire l'universo osservandolo con i telescopi, avevamo solo la luce come messaggero. E la luce è nata quando l'universo aveva circa 400.000 anni di età. Ora, con le onde gravitazionali, possiamo andare in questa età oscura dell'universo. Ma per spostare i confini della conoscenza servono strumenti ancora più potenti e sensibili. Uno di questi sarà l'Einstein Telescope, la cui realizzazione è prevista per il 2035. Avrà tre bracci sotterranei lunghi 10 km, posti a triangolo. Gli specchi che rifletteranno la luce dei laser saranno raffreddati criogenicamente per ridurre le vibrazioni termiche. Ancora più ambizioso è il progetto LISA, che verrà lanciato nel 2034. In questo caso si tratterà del primo osservatorio spaziale di onde gravitazionali. Sarà composto da tre satelliti, posti in orbita ai vertici di un triangolo equilatero, a decine di milioni di chilometri dalla Terra e distanziati tra loro di 2,5 milioni di chilometri. I nostri esperti, Cagnoli e Catapano, tracciano le prossime tappe scientifiche. Vogliamo, nei prossimi 20 anni, riuscire a rivelare le onde gravitazionali che arrivano da tutto l'universo visibile, anzi addirittura potremmo captare le onde gravitazionali che provengono dalla fusione di buchi neri quando non c'era nemmeno ancora una stella accesa nell'universo. La più grande produzione di onde gravitazionali avvenne col Big Bang. E arrivare a percepire un'onda che ci arriva da 13,7 miliardi di anni fa, adesso è una cosa concepibile, è un obiettivo scientifico assolutamente perseguibile.